Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 743 e parleremo del pianeta Terra e dei modi di abitarlo e difenderlo, di circhi e di alimentazione e degli animali forse più detestati del tempo presente, i topi. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala. La ricetta non violenta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni. Il 22 aprile scorso si è celebrata nel mondo la Giornata della Terra, così come avviene dal 1970, quando un'enorme manifestazione negli Stati Uniti segnò in qualche modo la nascita o almeno l'affermazione pubblica del movimento ambientalista. È passato oltre mezzo secolo ed è giusto chiedersi che progressi abbiamo fatto, se ne abbiamo fatti, in tutto questo tempo, a partire dall'allarme di allora, che precede di appena un paio di anni un documento chiave nella storia dell'ecologismo globale. Quel documento è il rapporto stilato dal Club di Roma, un gruppo di studiosi internazionali riuniti dall'italiano Aurelio Peccei. Il rapporto del 1972 per la prima volta esaminava l'impatto della società industriale sugli ecosistemi e denunciava ciò che ancora non era percepito, e cioè che esistono dei limiti fisici, terrestri, potremmo dire, allo sviluppo. Inutile dire che il rapporto fu del tutto ignorato dal potere e dal sistema mediatico che lo sorregge, pur circolando negli ambienti accademici e fra gli attivisti ecologisti. Il tema cardine di quel rapporto, cioè i limiti fisici allo sviluppo, in termini di sopportazione dell'inquinamento, ma soprattutto di progressivo esaurimento di risorse finite, come i minerali, gli idrocarburi, il suolo, l'acqua potabile e così via, è ancora più attuale di allora, per ovvi motivi. 50 e più anni di estrazione incontrollata ha ridotto gli stock, deturpato i territori, inquinato, disboscato, isterilito i suoli, fino a distruggere e rendere pressoché inabitabili molti territori. C'è poco quindi da celebrare nella Giornata della Terra. C'è semmai da mettersi in ascolto del grido di dolore e di allarme che arriva dal pianeta e da chi lo abita, le piante, gli animali, le minoranze coscienti della specie umana. È un grido che chi detiene il potere e controlla le forme di comunicazione, una potente minoranza, finge di ascoltare, perché prendere atto e agire di conseguenza comporterebbe mettere in discussione non solo poteri stabiliti e privilegi acquisiti, ma anche un dogma che nessun accademico, nessun politico, nessun osservatore, almeno fra quelli che vanno per la maggiore, fra quelli che contano davvero, è disposto a revocare in dubbio. Il dogma della crescita, dello sviluppo pressoché infinito, di produzioni e consumi. È il dogma sul quale si regge la società presente e politici, accademici, commentatori, imprenditori sono i sacerdoti che ne proteggono l'intangibilità. Perciò, nella Giornata della Terra, nel nostro piccolo, vogliamo denunciare l'attacco al pianeta e al suo futuro che la società industriale umana continua a sferrare, giorno per giorno, con sempre maggiore violenza. La vita animale, ma anche la vita vegetale e la stessa vita umana, perlomeno in alcune zone del mondo e specialmente per alcune fasce sociali più vulnerabili, sono sottoposte a pressioni sempre meno sopportabili. Vogliamo denunciare la retorica ingannatrice, sempre più scoperta, della sostenibilità, vocabolo magico che serve a coprire la verità, ossia che pochi interventi presi o progettati per contrastare il surriscaldamento del pianeta sono solo dei palliativi, utili a sedare le opinioni pubbliche. Sono interventi che non cambiano il corso degli eventi e non sfuggono alla rigida disciplina del dogma di cui dicevamo, la crescita tendenzialmente infinita di produzioni e consumi, la ragion d'essere della società industriale. Gaia Vince, giornalista scientifica britannica, autrice del libro Il secolo nomade, pubblicato da Bollati Boringhieri, ha scritto che nel nostro futuro, un futuro molto vicino, qualche decina di anni, diciamo verso la fine del secolo, ci sono cospicue migrazioni di popolazioni da regioni del pianeta destinate a diventare inospitali, in qualche caso addirittura inabitabili. E così andranno costruite nuove città, impiantate nuove coltivazioni, in zone della Terra oggi disabitate o poco abitate. La Siberia, la Groenlandia, la Russia settentrionale, il Regno Unito, per esempio, ospiteranno le future più grandi aree coltivabili del nostro emisfero. E sono destinate quindi a ospitare milioni di profughi. Il Sud Europa, nel quale abitiamo, per fare un altro esempio, sarà sulla via della desertificazione e della siccità, mentre le aree costiere verranno sommerse. Così milioni di persone dovranno spostarsi e le aree ancora abitabili dovranno ospitare profughi. Tutte le città andranno abbandonate o ripensate, a seconda dei casi. Ci stiamo forse preparando a tutto questo? La giornata della Terra è stata utile a impostare una riflessione su questi temi? Tanto noti e riconosciuti dalla stessa comunità scientifica quanto ignorati dal discorso pubblico? La risposta è nota. Paolo Pileri, professore di pianificazione urbanistica all'Università di Milano, ha scritto su altreconomia.it un articolo sulla giornata della Terra che vi invitiamo a cercare e leggere. In un passaggio decisivo dice così: fra guerre, liberalizzazione dell'uso di pesticidi, blocco di direttive per la rigenerazione della natura, accelerazione delle concessioni per realizzare le rinnovabili, zone logistiche semplificate, opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ponte sullo Stretto, Tyrrhenian Link, consumo di suolo e tanto altro, siamo alla giornata di lutto per la Terra e i suoli. Quindi celebrare la giornata della Terra come se fosse un momento innocuo, un omaggio al pianeta che ci ospita con la promessa di fare qualcosa per attenuare gli effetti del cambiamento climatico in corso. Vivere la giornata della Terra con sufficienza è dunque una mistificazione. E lo è tanto più per chi, come noi, cerca di fare informazione e cultura adottando una prospettiva non specista, non antropocentrica. Da questa angolatura è facile percepire che l'unica via possibile verso un cambiamento vero, verso un futuro almeno sopportabile, implica un'alleanza interspecifica. La specie umana, in particolare i suoi gruppi di comando, dovrebbero abbassare il capo, tanto inutilmente alzato, deporre lo scettro dello strapotere e mettersi in ascolto degli altri viventi, delle loro esigenze, e fare tesoro del loro esempio. Non c'è animale, non c'è pianta, non c'è pietra che non abbia in sé, come progetto di vita o di permanenza sul pianeta Terra, il senso del limite. Solo la specie umana sembra non averne, e oggi chi la guida, i ceti dirigenti, sembra avere scelto di correre ciecamente verso il disastro, lasciando a ciascuna persona, o forse meglio a ciascun gruppo di potere, la possibilità di procurarsi una nicchia di maggiore vivibilità in una competizione sfrenata, perché vitale, verso tutte le altre persone e gli altri gruppi di potere, mentre il disastro incombe. Visto in prospettiva, è un crepuscolo nutrito di ferocia. Vogliamo sperare che siamo ancora in tempo per cambiare rotta. E per quanto ci riguarda, ci dichiariamo dissidenti rispetto ai gruppi umani dominanti e vicini, anzi alleati, alle forme di vita non umana ospitate su questo piccolo, ormai quasi asfissiato, pianeta. Tra gli attivisti che hanno deciso di strappare il velo che separa la specie umana dagli altri animali e di porsi quindi in una prospettiva politica interspecista, ci sono senz'altro gli attivisti, ma forse prevalgono le attiviste, di ribellione animale. È un gruppo di azione diretta che comincia a fare notizia. L'ultima azione compiuta riguarda i circhi. Come riporta l'agenzia di stampa ANSA, quattro attiviste del movimento antispecista Ribellione Animale hanno presidiato l'ingresso del Circo della Pellerina a Torino per sensibilizzare, così hanno spiegato, le persone in coda sul tema dello sfruttamento animale che si cela nei circhi con animali. Che l'ASL approvi o meno le condizioni in cui sono tenute, hanno scritto, resta inaccettabile che alcune vite animali vengano messe al servizio di una continua spettacolarizzazione per il divertimento di qualcuno che comunque rappresenta una minoranza in questo paese. I risultati del sondaggio BVA Doxa condotto nel settembre 2023 rivela infatti che il 77% degli italiani è contro l'utilizzo di animali nei circhi. L'azione di Torino, hanno spiegato ancora le attiviste, si inserisce all'interno della campagna Kimba, Ruggiti di Libertà, cominciata il 1 febbraio con un'azione di disobbedienza civile in Piazza del Popolo, nel cuore della capitale. La campagna nasce e si ispira alla ribellione di Kimba, il leone scappato dal circo che lo teneva prigioniero lo scorso 11 novembre alla Dispoli. Come movimento di resistenza civile non violenta, Ribellione Animale chiede al governo italiano di porre fine allo sfruttamento degli animali nei circhi su tutto il territorio nazionale. I circhi italiani, concludono le attiviste del movimento, ogni anno ricevono pieno sostegno dal Ministero della Cultura, che finanzia le loro attività attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. Una spesa pubblica, aggiungiamo noi, della quale faremmo volentieri a meno. È finito l'inverno, ma ancora il freddo sale. Non ho più terra, la mia terra rimane a guardare. L'orizzonte è strano, se non hai meta, si allontana da te. L'uomo mangia l'uomo, succhia la preda. Dimentica. Quanta bellezza aggredita, sciupata. Sete di potere mai appagata mai. L'orizzonte scappa, se non hai metà, si allontana da te. L'uomo sbrana l'uomo, succhia la preda. Dimentica. A proposito di nuovi modi di interpretare le relazioni fra specie diverse, ci piace segnalare un lungo articolo pubblicato da Akai Magazine, una rivista canadese, e tradotto e pubblicato dal settimanale internazionale con l'eloquente titolo Dalla parte dei ratti. Da sempre, si legge nel sottotitolo, gli umani li considerano sinonimo di sporcizia e malattia e cercano di sterminarli in ogni modo, ma le accuse sono in gran parte infondate. Perché non provare a convivere? L'articolo, a firma J.B. McKinnon, smonta molti pregiudizi verso i topi, sottoposti nella società contemporanea a trattamenti atroci. Pensiamo alle trappole che infliggono sofferenze infinite prima della morte, alle campagne di deratizzazione, che sono progetti di sterminio in piena regola, con l'uso di veleni che portano alla morte attraverso sofferenze mostruose. I topi vengono trattati come se non fossero capaci di soffrire, come se non fossero esseri viventi, per non parlare dei milioni di individui sottoposti a sperimentazione scientifica. Buona parte dei pregiudizi verso i topi ha una precisa origine storica, ossia il fatto che sono stati a lungo considerati come il vettore che causò la disastrosa epidemia di peste che fra il 1347 e il 1352 sterminò circa un terzo della popolazione europea. Nuove ricerche, spiega l'autore dell'articolo pubblicato da Internazionale, hanno messo in forte discussione questa versione dei fatti e pare più probabile che la peste sia stata trasmessa da umano a umano attraverso dei parassiti, favoriti dalla scarsa igiene personale tipica del tempo e dalle condizioni di vita, nell'indigenza, nella sporcizia, di buona parte della popolazione umana. I topi, insomma, non trasmettono particolari malattie, sono semmai una specie che gli etologi definiscono commensale rispetto alla specie umana, nel senso che vive negli stessi ambienti e si nutre del cibo messo a disposizione dagli umani, più o meno volontariamente. Piuttosto che sterminare i topi sulla base di paure e minacce poco fondate, sarebbe più saggio imparare a convivere, limitando certo i momenti di contatto, come è necessario fare rispetto a tutte le specie animali selvatiche, ma trovando delle mediazioni, delle formule accettabili per tutti. Come scrive McKinnon, stiamo imparando di nuovo a coesistere con altre specie selvatiche che erano considerate nocive e pericolose, come i lupi, gli orsi, i coyote e i castori. Stiamo anche scoprendo che la gestione della fauna selvatica è relativamente facile. Il difficile è gestire gli umani. Gli orsi possono essere ottimi vicini se non si abituano a mangiare spazzatura da cestini facili da aprire. I lupi possono vivere fra noi senza che ce ne accorgiamo, ma non se gli diamo da mangiare per farci un selfie con loro. I ratti possono essere i nostri compagni silenziosi, ma non se buttiamo tanti di quegli avanzi che alcuni di loro arrivano a preferire il cinese all'italiano, o viceversa. Il campo quindi è aperto all'immaginazione e alla convivenza. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Chi segue questa trasmissione, in onda ormai da una dozzina d'anni, la notizia che stiamo per riferire potrà suonare già nota, fin troppo conosciuta. E tuttavia vale la pena riferire dell'indagine condotta da Altro Consumo, una rivista lontana dall'animalismo e dall'antispecismo, a proposito dell'impatto ambientale dei diversi regimi alimentari. È un'analisi, se vogliamo, collaterale al nostro punto di vista. Se preferiamo, indichiamo come necessaria un'alimentazione su base esclusivamente vegetale è perché siamo mossi da un senso di fratellanza e giustizia rispetto agli animali non umani. E tuttavia, poiché siamo più interessati alle concrete strategie di cambiamento che ai posizionamenti etici, siamo anche coinvolti nei processi di mutamento politico legati ai cambiamenti climatici, nella lotta, insomma, per rivendicare un altro modo di abitare il mondo e di relazionarsi con gli altri esseri viventi. Dunque Altro Consumo ha messo a confronto la dieta vegetariana e quella vegana con la cosiddetta dieta mediterranea, che tanto piace a un certo ambiente culturale, politico e mediatico. Il risultato, diciamolo subito, non è sorprendente e mostra come le prime due, vegetariana e vegana, generano un impatto minore sull'ambiente per via dell'esclusione di carne e pesce rispetto alla dieta mediterranea. Secondo la rivista, la dieta giusta, quella che può aiutare a prevenire malattie anziché curarle e anche a ridurre l'impatto ambientale, è quella che valorizza i prodotti vegetali e stagionali, riducendo il consumo di carne e di latticini. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite del dicembre 2023, riportato da Altro Consumo, la filiera alimentare è responsabile del 30% delle emissioni di gas serra e queste sono causate al 60% dai prodotti animali. L'indagine di Altro Consumo è stata realizzata chiedendo a un nutrizionista di preparare tre diete equilibrate dal punto di vista nutrizionale per un individuo medio, con un apporto calorico giornaliero di circa 2000 kcal. Sulla base degli alimenti e delle quantità fornite per ciascuna dieta, è stato calcolato il costo e l'impatto ambientale, per poi mettere a confronto l'una e le altre. Secondo le analisi di Altro Consumo, una persona adulta che segue la dieta mediterranea ogni settimana produce 15 kg di CO2 equivalente e consuma 19 metri quadrati di suolo e 1880 litri d'acqua. La dieta vegana è quella che complessivamente ha il minore impatto ambientale. Pesa il 32% in meno di quella mediterranea e il 18% in meno di quella vegetariana. Una persona adulta che segue la dieta vegana produce ogni settimana 8 kg di CO2 equivalente, consuma 15 metri quadrati di suolo e 1810 litri di acqua. La dieta vegetariana rispetto a quella vegana, ma anche rispetto alla dieta mediterranea, consuma più acqua per la presenza di formaggi. Un adulto vegetariano, nell'ipotesi di Altro Consumo, produce ogni settimana 11 kg di CO2 equivalente, consuma 17 metri quadrati di suolo e 1980 litri di acqua. La dieta vegana, quindi, è la preferibile. Se si passa a esaminare il portafoglio, quanto cioè si spende, risulta invece che il regime alimentare più economico è quello vegetariano, con 53 euro di spesa, appena un euro in meno rispetto alla dieta vegana, mentre la dieta mediterranea è ben più costosa, 63 euro. Cade così anche uno dei luoghi comuni sulla scelta vegetariana e vegana, ossia la sua supposta natura radical chic, abbordabile solo ai più abbienti. Ciascuno poi faccia le proprie scelte. Choice. Abbiamo chiesto Gabriele Palloni, maestro di cucina, amico della non violenza e dell'antispecismo, autore di vari libri, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana alla giornata della terra. Sentiamo che cosa ci propone. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. A conferma che i vegani non mangiano solo erba, la ricetta di oggi è dedicata ed ispirata alla tanto bistrattata terra. Gli ingredienti per 4 persone per la terra di olive taggiasche con fave e patate al forno sono 500 g di fave fresche, 500 g di patate, 100 g di pane di segale, 100 g di olive taggiasche, uno spicchio di aglio, del rosmarino, il succo di mezzo limone, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sbucciate le fave e le patate e tagliate le seconde a cubetti. Mettete tutto in una ciotola e condite con l'aglio tritato, il succo di limone, il rosmarino, l'olio extravergine, sale e pepe. Mescolate bene e adagiate il tutto su una teglia da forno. Fate cuocere a 190 gradi per circa 30 minuti. Le patate dovranno risultare ben dorate e morbide. Nel frattempo tostate il pane di segale assieme alle olive taggiasche. Lasciate raffreddare, quindi tritate il tutto con un mixer fino ad ottenere delle briciole non troppo fini. Preparate un letto di terra di olive e pane sui piatti e sopra di esso sistemate le patate e le fave ben calde. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Valentina Barotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.